Cantine di Franciacorta. Ben ritrovati da Bornato di Cazzago San Martino, azienda Monterossa, creata da Paola Rovetta, vera pioniera del Franciacorta e una delle prime donne del vino. 500.000 bottiglie all'anno, tutte bollicine. Sentiamo Emanuele Rabotti, figlio di Paola Rovetta. Un'azienda come la nostra, che oggi produce 500.000 bottiglie, può apparire una grande azienda, ma è un'azienda comunque che fa una goccia nell'oceano. Quindi quello che è fondamentale è distinguersi sulla qualità. La qualità e l'eccellenza richiedono specializzazione, quindi questa decisione per me è stata quasi naturale. Oggi è per me una cosa ormai superata, nel senso che questa decisione io l'ho presa 15 anni fa. Questo ha portato a fare delle scelte molto radicali allora in azienda, cambiare vigneti, attrezzare la cantina, proprio per ottenere un prodotto specifico che è il Franciacorta. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.